Durante una visita al Consiglio Ecumenico delle Chiese a Ginevra l'11 dicembre 2003, il presidente iraniano Said Mohammad Khatami ha lanciato un forte appello al dialogo interreligioso da considerarsi come un'alternativa al fondamentalismo religioso e come fonte di pace e di stabilità internazionale. Parlando come personalità religiosa e come intellettuale, il presidente Khatami si è rivolto a un pubblico composto da leader religiosi, diplomatici, universitari, giornalisti e dal personale del Consiglio Ecumenico Religioso e di altre organizzazioni ecumeniche, con sede a Ginevra sul tema dialogo religioso e rapporti internazionali. Di fronte a tensioni internazionali, ha ribadito Khatami, che possono sembrare avere una dimensione religiosa, il dialogo delle civiltà, ma anche il dialogo tra le religioni, in particolare tra l'Islam e la cristianità, sembra essere una necessità assoluta e vitale. Il futuro della religione, ha poi continuato il leader islamico, dipenderà dall'abbandono del fanatismo e della reciproca comprensione e apertura. Nessuna religione può pretendere di possedere la verità assoluta. Il dialogo è il fondamento che permette l'unità nelle diversità. Mi fa molto piacere che ci sia un dialogo tra le religioni, se non altro per togliere l'ignoranza e i pregiudizi che sono deleteri per parlare di ciò che bisogna parlare. Parlare su presupposti sbagliati, su pregiudizi inesistenti, impedisce il vero dialogo teso a comprendersi. Il leader religioso islamico non ha detto nulla di nuovo, anche se qualcosa di nuovo può esserci. Nessuna novità per il tipico atteggiamento di chi vuole a tutti i costi mirare, con un interesse, ad una uguaglianza delle religioni. Ma è una cosa insolita che un esponente islamico pretenda che nessuna religione possa possedere la verità. Questo, per un musulmano, non è possibile. Se è possibile, non è più musulmano. Che l'Islam sostenga che nessuna religione possa possedere la verità è una fantasia dalla quale tutti dobbiamo liberarci, perché il suo credo è niente meno. Non ci è Dio all'infuori di Allah, e Maometto è il suo profeta. Se Allah è l'unico vero Dio, allora è evidente che tutte le religioni che presentano un altro Dio, compreso il cristianesimo, sono nell'errore. Perché un musulmano possa essere coerente con il suo credo e portare avanti un dialogo interreligioso senza che nessuno abbia degli assoluti, deve cambiare la sua professione di fede e sostenere che Allah è una delle tante divinità esistenti. Se sostiene questo, è costretto a cambiare religione, perché chi ha una fede islamica deve ritenere impossibile ammettere anche solo l'eventualità che la sua fede sia relativista. Se mi è concesso, io non accetto nel modo più assoluto l'opinione del leader religioso musulmano, perché, senza entrare in merito alle sue motivazioni, egli toglie al cristianesimo quella unicità che lo ha sempre caratterizzato fin dal suo nascere. Per quanto il cristianesimo nel senso etimologico del termine sia una religione, cioè un legame con Dio, va continuamente chiarito che i cristiani non professano una religione secondo l'immagine comune che si attribuisce a tale azione, ma essi affermano che la verità è una persona, Gesù Cristo. Voler impedire ai cristiani di affermare che Gesù Cristo è la verità significa spogliare la loro fede radicale e esclusivista, significa impedire di proclamare al mondo che Gesù Cristo è il solo Dio fattosi uomo. Proprio per questo, mi domando, con sempre più crescente stupore, come sia possibile che persone sedicenti cristiane possano non solo tacere, ma anche approvare, con applausi, affermazioni come quelle di Khatami. Devo confessare la mia preoccupazione: coloro che si dichiarano cristiani e non lo sono, sono i maggiori responsabili se la fede cristiana oggi è mal compresa e se il cristianesimo non si distingue dalle altre religioni. Se i cristiani non professano con coraggio la radicalità e unicità del loro messaggio, se non sono disposti a soffrire a causa di questa fede, la proclamazione del messaggio del Vangelo verrà da un'altra fonte. Scriveva Francis Schaeffer, un uomo che con coraggio professava il Vangelo nella sua generazione: gli uomini non sono cambiati neppure un poco. Che un uomo possa pensare di predicare oggi la parola di Dio senza sperimentare il vero prezzo della croce di Cristo, nel senso di non essere accettato dalla cultura, che un uomo possa pensare di essere un dicitore, sia se è un insegnante, Un pastore, un artista cristiano, un poeta, un musicista, un regista, un drammaturgo, ogni uomo che pensa di poter parlare veracemente delle cose di Dio oggi, in una cultura come la nostra, senza che nessuno gli parli contro, è un folle. Non è possibile. Non è possibile sia se è un dicitore della parola con la musica o con la sua voce, sia se suona uno strumento o se parla da dietro un pulpito, sia se scrive un libro o se dipinge un quadro. Pensare di portare il messaggio cristiano senza avere il mondo con la sua monolitica post-cristiana cultura contro è non capire la violenza della battaglia in un'epoca come quella di Geremia e come la nostra. Queste riflessioni fanno pensare. Pretendere che il cristianesimo sia accettato con gioia dalle folle, pretendere che non incontri opposizione, opposizione con volti diversi secondo le epoche, è come pretendere di buttarsi in mare e non bagnarsi. Secondo lo storico Luca, il cristianesimo, al suo sorgere, era ritenuta una setta, che trovava ovunque opposizione. Atti 28-22. Se l'opposizione iniziale era ciò che caratterizzava il Vangelo dei primi cristiani, ed era, senza cadere nel vittimismo, il segno della sua veracità, come mai oggi il messaggio della croce non trova opposizione con le altre religioni, soprattutto in quella islamica che dichiara che vi è un solo Dio, Allah, e Maometto è il suo profeta? O i cristiani non riescono a vedere il volto nuovo dell'opposizione che assorbe alcune verità cristiane come spugna mantenendo intatta la propria fede, o stanno proclamando un altro Evangelo? Per quanto mi riguarda, non ho nessuna rimostranza da presentare a chi ha un'altra fede. Sarebbe assurdo un tale atteggiamento. E come chi biasmasse la mia fede. In questo, quindi, ritengo saggio che ogni religione sia rispettata senza essere condannata a priori. Ritengo giusto che non vi siano guerre di religioni, anche perché non tutti appartengono ad una religione. Se ho una rimostranza, essa è diretta verso coloro che si professano cristiani, ma non lo sono di fatto. Se non si dichiarassero cristiani, non avrei nulla da dire sul loro comportamento, perché chi sarei io da censire il comportamento altrui. Ma poiché alcuni si proclamano cristiani e non vivono come tali, ho una forte protesta verso di loro. Se essere cristiani significa credere in Gesù quale unico Dio, fattosi uomo che è la verità, che nessuno viene alla divinità se non per mezzo di lui, allora, e solo allora, chi si professa cristiano deve scontrarsi con affermazioni simili a quella dell'esponente islamico, che nessuna religione può pretendere di possedere la verità assoluta. È vero che i cristiani non pretendono di possedere la verità assoluta, ma essi pretendono di credere e di predicare l'unica verità assoluta, cioè Gesù Cristo. Questo fatto si scontra con la confessione di fede che non chemica vericarcat è Dio all'infuori di Allah e Maometto è il suo profeta. Per i cristiani vi è un solo Dio nel quale sussistono tre persone e Gesù Cristo è il solo che lo ha fatto conoscere. Il cristiano ha il dovere di essere tollerante, di manifestare comprensione, apertura, tatto, grande pazienza con chiunque contesti la verità, ma diventa intransigente quando si tratta dell'unicità di Gesù. Mentre gli insegnamenti di Gesù sono assolutamente universali, aperti a tutti, senza pregiudizi razziali, la persona di Gesù non si contratta. Secondo la mia esperienza, se vi è confusione nell'ambito religioso, la colpa è di coloro che si professano cristiani e non lo sono. Sono stato ad un dibattito interreligioso tra un musulmano, un ebreo e un protestante. Tutti e tre sostenevano la necessità del dialogo interreligioso. Tutti e tre sostenevano di avere la stessa fede. Tutti e tre sostenevano di essere monoteisti, di credere nello stesso Dio. Quando mi fu data la parola, misi in evidenza le loro contraddizioni perché il musulmano non credeva che Gesù sia Dio, l'ebreo non credeva che il suo Dio fosse il padre di Gesù. Cristo, il protestante, non credeva che Maometto fosse il profeta di Allah. Anche se può sembrare assurdo, l'opposizione più sfacciata l'ebbi da parte del protestante, proprio da parte di colui che si professava cristiano, mentre gli altri due relatori si godevano la diatriba, tra due persone che professavano di credere nell'unico Gesù Cristo, in seguito ebbi occasione di parlare personalmente e privatamente con tutti e tre i relatori. Il musulmano mi confessò che avevo ragione, perché lui non credeva in Cristo quale Dio. L'ebreo ammise la mia valutazione. Il protestante continuò a sostenere la sua tesi. Questo episodio mi ha confermato che i sostenitori delle altre religioni rimangono profondamente radicati nella fede che professano, anche se hanno un'apparente apertura verso altre fedi. Ma molti di coloro che si professano cristiani non credono in ciò che professano. Mentre gli altri due relatori, il musulmano e l'ebreo, parlavano di un dialogo interreligioso per interesse, il relatore che si professava cristiano non aveva nessun interesse di confessare una sola fede con il musulmano e l'ebreo. Perciò il suo errore è stato doppiamente micidiale. Alla fine dell'incontro, qualcuno mi si è avvicinato invidiando la mia franchezza, confuso, perché non aveva avuto il coraggio di esprimere pubblicamente la sua fede nell'unicità del cristianesimo. Non espongo queste riflessioni con l'intenzione di voler cambiare il percorso delle religioni. Moltitudini di religioni ci sono sempre state e sempre ci saranno. Neanche Dio si è proposto di volere unire tutte le religioni in una, altrimenti lo avrebbe già fatto. Voler appiattire ogni espressione religiosa è l'obiettivo più diabolico che esista, perché non si tratta di rivalutare la fede altrui, ma di abbassare e alterare l'unico messaggio del Vangelo. Lo scopo del dialogo interreligioso da parte di altre confessioni di fede, specialmente l'Islam, è quello di voler togliere alla fede cristiana la sua unicità. Se nessun esponente islamico è disposto ad ammettere che Allah non è il suo vero Dio, perché i cristiani dovrebbero negare che Gesù Cristo è figlio di Dio? Se alla fine i musulmani, per un dialogo interreligioso, ammettessero anche che Allah non è il vero Dio, perché i cristiani dovrebbero negare, sempre per un dialogo interreligioso, la divinità di Gesù? Così, per non entrare in conflitto, si preferisce ammettere ingiustamente che tutti abbiamo lo stesso Dio, accontentando religiosi e sedicenti cristiani. Se il dialogo è inteso a conoscerci meglio, ben venga, ma se il suo scopo è quello di voler togliere al cristianesimo la sua radicalità e il suo estremismo, allora è un dialogo scorretto, che si protrarrà finché i figli di Dio scendono nel sincretismo, come del resto molti stanno facendo. Il Vangelo di Cristo è un messaggio radicale, unico, insostituibile, perché è la rivelazione di Dio, il Padre di Gesù Cristo. Nessun altro messaggio può essere paragonato al suo, nessun'altra religione può mescolarsi con il Vangelo di Cristo. Questa verità non può essere imposta a chi ha un'altra fede, ma deve essere accettata, vissuta e predicata da coloro che si professano cristiani, altrimenti, come disse Francis Schaeffer, la Chiesa evangelica è un museo di morti artefatti che rappresentano ciò che una volta era la pratica vivente della dottrina in cui ancora crediamo. L'ordine di predicare che la divinità dei cristiani è il Padre di Gesù Cristo, che il Figlio di Dio è la sola verità, non soddisfa solo chi ha il compito di predicare il puro Evangelo, ma esso va incontro all'ardente bisogno dell'uomo di conoscere che senza l'opera redentrice di Gesù Cristo è perduto e vive nell'errore, e rivela come sia possibile avere la vita eterna per andare alla presenza dell'unico vero Dio della fede giudeo-cristiana. Come potranno credere in colui del quale non hanno udito parlare? Come potranno credere che solo in Gesù sta la salvezza, se i cristiani continuano a dialogare senza predicare il Vangelo? E credo che non vi sia niente di più importante in questa vita della salvezza dell'anima, più importante persino del dialogo interreligioso. Marzo 2004. Ellero,